La politica alla prova. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. Si parla di riforme istituzionali, ma soprattutto di presidenzialismo, o meglio di elezione diretta del capo dello Stato. D'accordo il PDL, da sempre una sua battaglia, per presso il PD, contrario il Movimento 5 Stelle. Ma sentiamo cosa ne pensate. Pensate che parlare di presidenzialismo fa sì che si metta tutto in un calderone e alla fine non si faccia nulla? Al 349-238-6666 le vostre risposte. Intanto dobbiamo dire che il capo dello Stato Giorgio Napolitano fa pressing sul governo. Questa mattina ha incontrato il premier Enrico Letta, il ministro delle riforme Gaetano Quagliariello e quello dei rapporti con il Parlamento Dario Franceschini. Per Napolitano la priorità è cambiare la legge elettorale e il governo è a tempo, a 18 mesi, e ci sono quindi perplessità per le riforme totali, una posizione poi avversata da Beppe Grillo, ma lo sentiremo tra poco. Sentiamo intanto che cosa ne pensa del presidenzialismo Maurizio Gasparri del PDL. Bisogna fare le riforme vere e serie, non bisogna fare un ritocchino alla legge elettorale che sarebbe un esito fallimentare. La montagna non deve partorire il topolino questa volta, c'è il tempo, ci sono le condizioni per una riforma seria. La modifica della Costituzione con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica è la premessa, poi una serie di altre scelte, revisione del bicameralismo, riduzione dei parlamentari e ovviamente una legge elettorale che non può non essere in sintonia con la scelta di governo, con la scelta presidenzialista. Ma Grillo dice che voi del PDL volete l'elezione diretta del capo dello Stato, così poi Berlusconi diventa il duce dell'Italia. Ma non lo so, Grillo ha proposto uno che ha detto che adesso gli fa schifo, lo insulta. Quindi insomma, se fossi una persona non terrei gran conto delle opinioni di Grillo, visto che lui le butta nel cestino dopo averle sostenute le sue opinioni. Guardasi gli insulti che sta disseminando ai suoi eroi di due mesi fa. Ma intanto non converrebbe tagliare il numero dei parlamentari e superare il bicameralismo perfetto? Questo avrebbe anche un impatto sui conti. Ma perché non fare un pacchetto che dia anche una governabilità? Il problema è la punizione del Parlamento, tagliando qui, tagliando lì, o far funzionare la democrazia? Sì, bisogna ridurre il numero dei parlamentari, bisogna anche avere poi una democrazia che funzioni. Quindi serve il presidenzialismo, che è una garanzia vera di democrazia, di partecipazione, ed è una scelta che va fatta. Il resto è solo un problema di punire. Allora aboliamolo il Parlamento e si fa prima. Qualcuno chiami un erede del generale Videla, che è recentemente scomparso, gli affida l'Italia. Costa molto meno sotto il profilo economico, però costa la libertà e la democrazia. Io non condivido, ma qualcuno se vuole lo proponga. E mal di pancia nel PD? Nel PD? Beh, mal di pancia ce ne stanno da tutte le parti. Il PD credo che stia discutendo, ma discute troppo. Di discussioni poi un partito può morire, l'importante è che non coinvolga gli altri. Facciano una scelta, mi auguro che la direzione imminente sia più coraggiosa sul presidenzialismo, prendendo spunto da tanti suoi esponenti che hanno aperto a questa scelta. E questo era il senatore Gasparri, ci fa un po' sorridere questa ventilata ipotesi di dittatura detta insomma da Gasparri, che voglio dire ha dei trascorsi particolari. Comunque, presidenzialismo sarebbe la cosa migliore per Riccardo, perché finalmente si governerebbe. Calare le tasse alla gente, al lavoro, al diavolo il presidenzialismo. Massimo, questo governo faccia le cose urgenti, grazie. Mi sembra incredibile, veramente non si rendono conto che Istanbul è vicino. Invece ci tocca sentire Gasparri, questa è la migliore di tutte quelle scritte dai nostri radioascoltatori. Il PD intanto è perplesso, come sentivamo. Allora sentiamo il vice capogruppo alla Camera, Andrea Martella. Diciamo che finalmente si è avviato un percorso per fare le riforme costituzionali ed istituzionali che possono permettere al nostro Paese di modernizzarsi, di avere delle istituzioni più efficienti, e entreremo nel merito di questa discussione sottoponendo al Parlamento più ipotesi. Tra le varie ipotesi è in campo anche quella del semipresidenzialismo. Io penso che possa essere ormai una riforma matura per il nostro Paese, alla quale si deve accompagnare naturalmente anche l'elezione nei collegi con doppio turno, cioè se dobbiamo andare verso il sistema francese dobbiamo pensare a tutto il sistema francese, oltre che a un sistema di garanzie e di equilibri che possono garantire un passaggio al semipresidenzialismo con tutte quelle garanzie, affinché il Parlamento sia un Parlamento che controlla in maniera efficace. Quindi questa è la vostra proposta al PDL, perché il PDL parte subito perché loro sono a favore del semipresidenzialismo, però voi del PD mettete come controbilanciamento il doppio turno. Ma non è che lo mettiamo come controbilanciamento, il semipresidenzialismo è una riforma di ordine costituzionale, il doppio turno è una riforma, è una legge ordinaria, e non c'è dubbio che abbiamo detto che noi dobbiamo eliminare il porcellum e quindi procedere verso una nuova legge elettorale, che dovrà essere configurata al sistema che ci sarà. Non si rischia di mettere tutto nel calderone e poi alla fine per non fare nulla? Io credo che bisogna cercare di fare tutto, abbiamo un'occasione, come dicevo, che non può essere sprecata. Si tratta di fare delle cose molto difficili, ma molto importanti. La riforma dello Stato, la riforma del governo, l'abolizione del Senato con l'istituzione del Senato delle Regioni, la riduzione del numero dei parlamentari, la ripartizione delle competenze in maniera diversa tra Stato e Regione, l'abolizione delle province, l'istituzione delle città metropolitane. È tutto un calderone questo. E allora sentiamo subito che cosa risponde Alessio Villarosa, vice capogruppo 5 Stelle alla Camera. No, crediamo che siano uno dei tanti metodi per offuscare, insomma, il pensiero degli italiani, perché si continuano a mettere cose all'interno di un calderone che poi alla fine non verranno mai fatte. Cioè, secondo me si cerca di spostare l'attenzione su altri temi, questo è il reale motivo di questa uscita di stamattina sul presidenzialismo, anche perché abbiamo presentato una proposta di legge sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti che non c'è stata calendarizzata e guarda caso due giorni dopo ci hanno presentato un DDL. E oggi esce il presidenzialismo e domani sicuramente uscirà qualche altra cosa. Quindi voi che cosa volete? Chiedete come riforme il taglio del numero dei parlamentari e il bicameralismo? Le vostre proposte quali sono poi? Le nostre proposte sono quelle che abbiamo presentato nella nostra proposta di legge, anche il vincolo del mandato a 2 anni, la riduzione dei parlamentari, insomma abbiamo... Il superamento del bicameralismo perfetto? Il superamento del bicameralismo perfetto è un qualcosa che dobbiamo discutere in assemblea. Quello che un impatto sui costi, no? Il bicameralismo perfetto, se attuato con le reali regole, perché il bicameralismo perfetto, parliamoci chiaro, una legge viene affrontata da due rami del Parlamento che sono due generazioni differenti, dovrebbero essere, che mai nessuno ha rispettato, anche perché non c'è una regola ben precisa. Quindi in questo momento effettivamente il bicameralismo perfetto non ha nessun senso. Se fosse attuato in un determinato modo, come l'abbiamo attuato più o meno noi nel Movimento 5 Stelle, allora avrebbe un senso, così sinceramente no. Cioè, nel senso che voi avete candidato i giovani alla Camera? No, 25-40 anni, abbiamo rispettato, diciamo, le regole. Quelli oltre 40 anni l'avete candidato? Okay. Va bene, quindi insomma, sul presidenzialismo però poi ci sarà una discussione. Ci sarà una discussione, sì, sicuramente non è la priorità per il Paese, non è così su due piedi le direi che non sono d'accordo. Ma... E questo era Alessio Villarosa del Movimento 5 Stelle. Ricordiamo le parole di Beppe Grillo: Berlusconi vuole diventare presidente duce, ma il Movimento 5 Stelle attacca anche Napolitano, che non ha l'autorità di definire la durata del governo. Molti vostri sms, non abbiamo il tempo di leggerli, però un saluto da Elisabetta Fiorito.